Friuli nel mondo, 84esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vecchi motivi popolari friulani. Questi vecchi melodiosi motivi popolari friulani, tramandatesi da padre in figlio attraverso una lunga teoria di generazioni, esprimono lo spirito della nostra terra, con le sue tradizioni e con il ricordo delle sue vicende e delle antiche costumanze. La musica serena ed aggraziata vi riporterà per un attimo col pensiero e col cuore al ricordo nostalgico delle semplici e spensierate danze sui brears, nei chiusi cortili o nelle amene campagne, pavesati di bandierini e di festoni dei cari luoghi che da pochi o da molti anni avete forzatamente lasciati. Siamo certi, cari amici in ascolto, che queste melodie, come le pietre dei vostri patriarcali fogolars, avranno la forza di riavvicinarvi più intimamente al vostro, al nostro Friuli. Thank you. Non vogliamo però chiudere questa fiorita di villotte senza dedicarvi questa patetica serenade del cantore emigrante Arturo Giardini, l'indimenticabile autore di Stelutis Alpinis. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 84esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pedizzari. Ha suonato il complesso diretto dal maestro Bruno Degano.